Ok, non riesco a capire. Ok, non riesco a realizzare. Potete aiutarmi. Mi piacere aiutarmi. Sono qui nel mio letto, che guardo il soffitto. Non c'è soluzione. Cosa fare? Adesso invece è sera, mi con tutti i metodi, aiutami, calmami. Tu ne hai le proprietà, ne hai le capacità. Ti prego, usa la chimica, la logica. In fondo è solo un discorso di antagonismo, di bloccaggio ricetto. Ok, sono riuscito a dormire, ma non riesco ancora a capire. Anzi, non riesco a svegliarmi. Mi sento bloccato. Sono ancora qui nel mio letto, che guardo le mosche. Non riesco a muovermi. Adesso invece fermati, non so chi sei, mi sento rigido. Lasciatemi stare, sto proprio male. Cosa mi avete fatto, l'iniezione? In fondo è solo un discorso di inibizione del neurotrasmettitore, il GABA. Ok, sono riuscito a dormire, ma non riesco ancora a capire. Ma in fondo riesco a muovermi meglio. Mi sento pronto per uscire. Ma voi non mi lasciate andare. Dite che la condizione è ottimale. Devi ancora arrivare. Adesso invece voi mi rifate agitare, non mi lasciate.